20 uomini e gentiluomini. Margaret tornò a casa così assorta in quello che aveva sentito e visto e così addolorata che quasi non sapeva come fare a riprendersi per i doveri che l'attendevano. Era necessario mantenere la conversazione costantemente fluida e allegra per sua madre, che non potendo più uscire aspettava sempre con ansia il suo ritorno, anche da una breve camminata, per sentire qualche novità. «E la tua amica della fabbrica può venire giovedì a vederti con indosso l'abito?» «Oh, stava così male che non ho pensato di chiederglielo», disse Margaret con aria malinconica. «Santo cielo, mi sa che adesso sono tutti malati», disse la signora Hale con un po' di quella gelosia che un infermo è portato a provare per un altro. «Ma deve essere molto triste essere malati in uno di quei vicoletti squallidi». Trionfava la sua natura gentile e ritornava al solito modo di pensare che aveva a Helston. «È già abbastanza brutto qui. Che cosa potresti fare per lei, Margaret? Dopo che sei uscita, il signor Thornton mi ha fatto recapitare alcune delle sue bottiglie di porto invecchiato. Pensi che una bottiglia di quel vino le farebbe piacere?» «No, mamma, non credo che siano tanto poveri, perlomeno non parlano come se lo fossero. Ad ogni modo, Bessie è malata di consunzione, non avrà voglia di vino. Magari potrei portarle un po' di marmellata fatta con la nostra adorata frutta di Helston. No, c'è un'altra famiglia alla quale mi piacerebbe dare qualcosa. Oh mamma, mamma, come posso farmi belle e andare alle feste eleganti dopo aver visto così tanto dolore oggi?» esclamò Margaret, rompendo le barriere che si era imposta prima di entrare in casa e raccontando a sua madre quello che aveva visto e sentito nella casetta degli Higgins. Il racconto addolorò oltremodo la signora Hale, la fece innervosire e agitare finché non riuscì a fare qualcosa. Ordinò a Margaret di preparare un cesto proprio lì in salotto da mandare prima agli Higgins e poi a quella famiglia. E quasi si arrabbiò con lei quando disse che non sarebbe cambiato nulla se l'avessero spedito la mattina successiva, dal momento che sapeva che Higgins aveva provveduto ai loro bisogni immediati e lei stessa aveva lasciato a Bessie del denaro. La signora Hale le diede quelli dell'insensibile perché parlava in quel modo e non si diede pace finché il cesto non fu fuori di casa. Poi disse: «Dopotutto forse stiamo sbagliando. Proprio l'ultima volta che è stato qui il signor Thornton ha detto che non sono veri amici quelli che contribuiscono a prolungare lo scontro aiutando gli scioperanti. Questo Boucher è uno scioperante, non è vero?» La moglie rivolse la domanda al signor Hale quando salì di sopra, dopo aver fatto una lezione al signor Thornton, che, come al solito, era finita in conversazione. A Margaret non importava se i loro regali avrebbero prolungato lo sciopero, a questo non aveva pensato, nello stato di agitazione in cui si trovava in quel momento. Il signor Hale ascoltava, cercando di mantenere la calma di un giudice, richiamò alla mente tutto ciò che neanche mezz'ora prima gli era sembrato così chiaro per come era venuto fuori dalle labbra del signor Thornton, dopodiché giunse a un compromesso non proprio soddisfacente. Sua moglie e sua figlia non solo avevano fatto più che bene in questo caso, ma non riuscì neanche a immaginare per un momento come avrebbero potuto agire diversamente. Non di meno, come regola generale, era proprio vero quello che diceva il signor Thornton, cioè che lo sciopero, se prolungato, avrebbe finito col portare i padroni a importare manodopera da fuori, a meno che in realtà la risoluzione finale non fosse, come era accaduto spesso in passato, l'invenzione di una qualche macchina che avrebbe ridotto notevolmente il bisogno di manodopera. Per tale motivo era abbastanza evidente che la cosa migliore che potevano fare era quella di negare tutto l'aiuto che avrebbe potuto incoraggiare la follia degli operai. Ma quanto a questo Boucher, sarebbe andato a trovarlo come prima cosa l'indomani mattina e avrebbe cercato di scoprire quello che si poteva fare per lui. Il giorno dopo il signor Hale ci andò, come aveva detto. Non trovò Boucher in casa, ma fece una lunga chiacchierata con sua moglie e promise di fare una richiesta di ricovero per lei all'ospedale dei poveri. E vedendo quante cose aveva dato loro in dono la signora Hale e come i bambini che al piano di sotto facevano quello che volevano quando il padre non c'era in qualche modo se ne approfittavano, tornò a casa con un resoconto molto più confortante e positivo di quanto Margaret avesse osato sperare. Infatti, Quello che lei aveva raccontato la sera precedente aveva preparato il padre a una realtà ben peggiore, il che, per una reazione della sua immaginazione, lo portò a descrivere tutto meglio di com'era realmente. Ma ci tornerò per parlare con quell'uomo di persona, disse il signor Hale. Faccio ancora fatica a paragonare queste casette a quelle di Helston. Qui a Milton vedo mobili che i nostri braccianti mai avrebbero pensato di comprare, e cibo comune qui che per loro sarebbe un lusso. Eppure per queste famiglie, adesso che non percepiscono più il loro salario settimanale, il banco di pegni sembra essere l'unica risorsa. Quassù, a Milton è necessario imparare un'altra lingua e giudicare con criteri diversi. Anche Bessie stava meglio quel giorno, ma era ancora così debole che sembrò essersi completamente dimenticata del suo desiderio di vedere com'era vestita Margaret, sempre che quello non fosse stato in realtà il desiderio delirante di un mezzo stato febbrile. Margaret non poteva non mettere a confronto questo suo strano modo di ornarsi per andare dove non le interessava, con il cuore appesantito da varie preoccupazioni ai gesti che lei e Edith compivano un tempo nel loro ingenuo e gaio farsi belle, poco più di un anno prima. Ora, l'unica cosa piacevole del prepararsi era pensare che sua madre sarebbe stata contenta di vederla elegante. Arrossì quando Dixon, spalancando la porta del salotto, richiamò l'attenzione generale affinché l'ammirassero. La signorina Hale sta benissimo, signora, non trova? Il corallo della signora Shaw è arrivato a puntino, dà proprio quel giusto tocco di colore, signora, altrimenti, signorina Margaret, sareste stata troppo pallida. I capelli neri di Margaret erano troppo folti per essere intrecciati, andavano invece attorcigliati attorno alla nuca in voluminose ciocche che comprimevano la loro bella setosità e che le cingevano il capo come una corona, per poi essere annodati dietro in una grande spirale. La pesante acconciatura era tenuta insieme da due grandi forcine di corallo che per la lunghezza sembravano piccole frecce. Le maniche di seta bianca erano allacciate con dei nastrini anch'essi di seta e al collo niveo portava proprio sotto la gola preziosi grani di corallo. Oh, Margaret, quanto mi piacerebbe recarmi con te a uno di quei vecchi incontri dei Barrington, accompagnandoti come Lady Beresford accompagnava me. Margaret diede un bacio alla madre per questa piccola esplosione di vanità materna, ma a malapena le riuscì di sorridere. Tanto si sentiva giù di corda. Sarei più contenta di restare a casa con te. Molto più contenta, mamma. Sciocchezze, tesoro. Bada bene di osservare tutto alla cena. Mi piacerebbe sapere come si organizzano queste cose a Milton, soprattutto alla seconda portata, cara. Osserva cosa propongono al posto della selvaggina. La signora Hale non sarebbe stata soltanto interessata, sarebbe stata sbalordita se avesse visto la sfarzosità con cui era stata apparecchiata e imbandita la tavola. Margaret, con il suo raffinato gusto londinese, trovò eccessiva la quantità di prelibatezze. La metà sarebbe stata sufficiente e l'effetto sarebbe stato più leggero ed elegante, ma una delle rigide regole di ospitalità della signora Thornton era quella di dare di ogni singola squisitezza la giusta quantità perché tutti potessero assaggiarla se ne avevano voglia. Presentare a tali ospiti un banchetto così curato era motivo di orgoglio per la signora Thornton, che per l'occasione dimenticava la sobrietà delle sue abitudini quotidiane. Suo figlio condivideva questo sentimento, non aveva mai conosciuto, sebbene avrebbe potuto immaginarla e sarebbe stato capace di apprezzarla, una società diversa da quella basata sullo scambio di pasti opulenti, e in quel momento, sebbene si negasse anche la spesa personale più irrisoria e più di una volta si fosse pentito di aver spedito gli inviti per quella cena, tuttavia, come doveva essere, fu contento di vedere la solita fastosità dei preparativi. Margaret e suo padre furono i primi ad arrivare e il signor Hale era ansioso di essere puntuale per l'ora indicata. Nel soggiorno, al primo piano, c'erano soltanto la signora Thornton e Fanny. Tutte le coperture erano state tolte e la stanza risplendeva con la seta gialla del damasco e i colori brillanti del tappeto fiorito. Ogni angolo sembrava riempito di soprammobili, tanto da stancare gli occhi e creava uno strano contrasto con la vista sgradevole e spoglia sul grande cortile della fabbrica, dove gli enormi cancelli scorrevoli erano spalancati per consentire l'ingresso delle carrozze. Guardando fuori dalle finestre, a sinistra, la fabbrica si ergeva in tutta la sua imponenza, gettando con i suoi numerosi piani un'ombra che oscurava la serata estiva prima del tempo. Mio figlio è stato trattenuto per questioni di lavoro fino all'ultimo momento. Sarà qui tra poco, signor Hale. Vi prego, accomodatevi. Il signor Hale era in piedi vicino a una delle finestre mentre la signora Thornton parlava. Si voltò dicendo: Non trovate sgradevole a volte essere così vicine alla fabbrica? Lei si raddrizzò. Mai! Non sono diventata così raffinata da voler dimenticare da dove derivano la ricchezza e il potere di mio figlio. Inoltre, di fabbriche come questa non ce ne sono a Milton. Un solo ambiente di circa 200 metri quadri. Volevo dire che il fumo e il rumore e il continuo andirivieni degli operai potrebbero dare fastidio. Sono d'accordo con voi, signor Hale, disse Fanny. Si sente di continuo un odoraccio di vapore e di macchine oleose e il rumore è completamente assordante. Ho sentito chiamare musica a rumori molto più assordanti. La sala macchine è in fondo alla strada, la sentiamo appena, tranne che in estate quando teniamo tutte le finestre aperte. E quanto al continuo brusio degli operai, non mi disturba più del ronzio di uno sciame di api. Se penso a tutto questo, lo collego a mio figlio e mi rendo conto che è tutto suo e che sua è la mente che comanda. In questo preciso momento non si sente nessun suono provenire dalla fabbrica. Come avrete forse sentito, i manovali sono stati così ingrati da scioperare. Ma la faccenda della quale parlavo quando siete entrato aveva a che fare con alcuni provvedimenti che mio figlio intende prendere per insegnar loro a stare al posto che gli spetta. Mentre diceva queste cose, l'espressione del suo volto, sempre austera, si incupì per la rabbia e non si schiarì quando il signor Thornton fece il suo ingresso nella stanza, poiché immediatamente si accorse del peso della preoccupazione e dell'ansia che non riusciva a scrollarsi di dosso, sebbene i suoi ospiti ricevettero un saluto che sembrava tanto allegro quanto cordiale. Strinse la mano a Margaret, si rese conto che quella era la prima volta che le loro mani si incontravano, sebbene lei non ci avesse fatto caso. Chiese della signora Hale e ascoltò le parole piene di ottimismo e di speranza del signor Hale e lanciando a Margaret una breve occhiata per capire quanto fosse d'accordo con il padre, vide che nessuna ombra di dissenso attraversava il suo volto. E mentre osservava con questa intenzione, venne nuovamente colpito dalla sua straordinaria bellezza. Non l'aveva mai vista vestita così prima di allora, eppure tutta quell'eleganza sembrava addirsi così perfettamente alla sua nobile figura e alla superba serenità della sua espressione che si sarebbe dovuta vestire sempre in quel modo. Stava parlando con Fanny, di cosa non riusciva a sentirlo, ma vedeva che sua sorella continuava a sistemarsi l'abito con una certa impazienza, con sguardo errante, lanciando un'occhiata qua e una là, ma senza uno scopo nel suo osservare. E con un certo disagio confrontò i suoi occhi con quelli grandi e miti di Margaret, che guardavano con attenzione un unico oggetto, emanando una luce carica di un influsso gentile e rasserenante. La linea delle rosse labbra appena dischiuse nell'attento ascolto di ciò che diceva la sua compagna. Il capo, piegato leggermente in avanti, in modo da formare un profilo sinuoso dalla sua sommità, dove la luce colpiva i lucidi capelli corvini fin sopra le morbide spalle color avorio, le bianche braccia ben tornite, le mani affusolate, incrociate lievemente l'una sull'altra, ma del tutto ferme nella loro posa leggiadra. Il signor Thornton sospirò, mentre coglieva tutto questo con un rapido colpo d'occhio. Dopodiché, dando la schiena alle due giovani signore, con uno sforzo, ma con anima e corpo, si tuffò in una conversazione con il signor Hale. Arrivarono altre persone e altre ancora. Fanny lasciò Margaret e andò ad aiutare sua madre ad accogliere gli ospiti. Il signor Thornton si accorse che con tutto quel viavai di gente nessuno stava parlando con Margaret e non si dava pace nel vederla così trascurata. Tuttavia non si avvicinò mai a lei, non la guardava nemmeno. Ma sapeva tutto ciò che stava facendo o non facendo, conosceva i suoi movimenti più di quelli di qualsiasi altra persona nella stanza. Margaret non era per niente a disagio e trovava così divertente osservare gli altri ospiti che non si curava dell'essere o meno considerata. Qualcuno l'accompagnò al piano di sotto per cenare, lei non riuscì a capire come si chiamava e lui non sembrò avere una gran voglia di parlare con lei. I signori conversavano animatamente, le signore per lo più rimanevano in silenzio, impegnate a fare attenzione alla cena e a criticare l'abito di questa o di quella. Fanny Margaret colse il senso dei loro discorsi e con crescente interesse si mise ad ascoltare attentamente. Il signor Horsfall, il forestiero la cui presenza in città era il vero motivo della festa, faceva domande relative al mercato e agli industriali del luogo, mentre gli altri signori, tutti uomini di Milton, gli rispondevano e gli davano spiegazioni. Nacque una discussione argomentata con toni piuttosto accesi. Riguardava il signor Thornton, che aveva a stento parlato fino a quel momento, ma che ora esprimeva la sua opinione, spiegando le sue ragioni in modo così chiaro che anche i contrari cedettero. L'attenzione di Margaret venne così richiamata dal suo ospite, il quale, in quanto padrone di casa e intrattenitore dei suoi amici, aveva dei modi diretti e allo stesso tempo così semplici e modesti da apparire estremamente dignitoso. Margaret pensò di non averlo mai visto sotto una luce così favorevole. Le volte che si era trovato a casa loro era sempre stato in qualche modo o troppo agitato oppure fastidiosamente a disagio, il che sul momento sembrava dimostrare che si sentisse ingiustamente giudicato e che allo stesso tempo era troppo orgoglioso per cercare di farsi capire meglio. Ma ora, tra i suoi compagni, non c'era alcuna incertezza sulla sua posizione. Lo consideravano un uomo dal carattere molto forte, un uomo di potere da svariati punti di vista. Non aveva bisogno di lottare per guadagnarsi il loro rispetto, lo aveva e sapeva di averlo. E questa certezza conferiva alla sua voce e ai suoi modi una grande tranquillità che Margaret prima non aveva colto. Non era sua abitudine conversare con le signore e quello che riusciva a dire loro era un po' formale. A Margaret stessa quasi non rivolse la parola. Lei si sorprese a pensare quanto si stesse divertendo a quella cena. Ne sapeva abbastanza adesso per comprendere molti interessi locali. Sì, persino alcuni termini tecnici utilizzati da quegli industriali zelanti. In silenzio prese una posizione molto precisa su quali parti prendere nella questione che stavano discutendo. Ad ogni modo, parlavano con una serietà assoluta, non con quello stile ormai logoro che l'annoiava tanto nelle vecchie feste a Londra. Si meravigliò che con tutti questi discorsi sugli industriali e il mercato del luogo non venisse fatta nessuna allusione allo sciopero. Ancora non sapeva con quale freddezza i padroni recepivano queste cose. Come se il finale possibile fosse soltanto uno. Di certo i lavoratori si stavano dando la zappa sui piedi, come avevano fatto già molte volte in passato, ma se erano stati così sciocchi da mettersi nelle mani di una banda di mascalzoni pagati per rappresentarli, dovevano accettarne le conseguenze. Un paio di signori pensarono che Thornton fosse demoralizzato e che certamente in questo sciopero avrebbe perso, ma era un inconveniente che in qualsiasi momento poteva capitare anche a loro, e Thornton era bravo come gli altri a gestire uno sciopero, perché era un giovanotto di ferro come nessun altro a Milton. Gli operai avevano valutato male il loro uomo nel giocargli quel brutto tiro, e tra di loro ridacchiavano all'idea degli operai sconfitti e frustrati nel tentativo di cambiare una sola virgola di quello che Thornton aveva decretato. Dopo la cena, Margaret si annoiò a morte e fu contenta quando vide arrivare i signori, non soltanto perché incrociò lo sguardo del padre che la rianimò dal suo torpore, ma perché così poteva ascoltare qualcosa di più importante e consistente degli insignificanti interessi di cui parlavano le signore. Le piaceva il modo in cui questi uomini di Milton si esaltavano di fronte al potere. Può darsi che lo ostentassero in modo eccessivo e che si vantassero, ma allo stesso tempo sembravano sfidare i vecchi confini della possibilità in una sorta di ebbrezza provocata dal pensiero di quello che era stato raggiunto e di quello che doveva ancora esserlo. Seppure nei momenti in cui era più distaccata avrebbe potuto non condividerne l'entusiasmo, c'era molto da ammirare in quel loro modo di dimenticarsi di sé e del presente, nel loro anticipare il trionfo su ogni questione materiale in un qualche tempo futuro che nessuno di loro sarebbe vissuto abbastanza a lungo da vedere. Trasalì, quando si trovò a fianco il signor Thornton che le parlava, ho potuto notare che eravate partecipe della nostra discussione durante la cena. Non è così, signorina Hale? Certamente, ma io ne so così poco. Comunque, sono rimasta sorpresa di scoprire da quanto ha detto il signor Horsfall che c'erano altri signori che la pensavano in modo del tutto contrario, come quel signor Morrison di cui ha parlato. Non può essere un gentiluomo, vero? Oh, non sono certo io la persona che può decidere chi sia un gentiluomo e chi no. Signorina Hale, voglio dire, non capisco molto l'uso che fate del termine, ma devo ammettere che questo signor Morrison non è un uomo leale. Non so chi sia, sto giudicando semplicemente da quello che ha detto il signor Horsfall. Beh, sospetto che il mio gentiluomo includa il vostro uomo leale. E molto di più, sembrate suggerire. Non sono d'accordo con voi, per me un uomo è un essere umano più nobile e più completo di un gentiluomo. Cosa volete dire? Chiese Margaret. Abbiamo modi diversi di intendere i termini. Beh, dal mio punto di vista, gentiluomo è un termine che descrive una persona solo nel suo modo di relazionarsi agli altri, ma quando parliamo di questa persona chiamandola uomo, non la consideriamo solamente in relazione ai suoi simili, ma in relazione a se stessa, alla vita, al tempo, all'eternità. Un naufrago solitario come Robinson Crusoe, un prigioniero rinchiuso per sempre nella sua cella, o meglio, un santo di Patmos come San Giovanni Evangelista, ha la propria resistenza, la propria forza, la propria fede, e per descriverlo sarebbe meglio usare la parola uomo. Sono piuttosto stanco di questa espressione da gentiluomo, che a me sembra venga spesso usata a sproposito e spesso inoltre con una tale esagerata distorsione del significato, mentre la piena semplicità del nome uomo e dell'aggettivo umano viene ignorata, il che mi induce a classificarli come termini del gergo quotidiano. Margaret riflette un attimo, ma prima di riuscire a esprimere la sua poca convinzione, un industriale impaziente lo chiamò. Lei non riuscì a sentire quello che disse, anche se poté indovinare la serietà delle sue parole dalle risposte brevi e chiare che diede il signor Thornton, che arrivarono ferme e decise come il lontano sparo di una piccola pistola. Stavano chiaramente parlando dello sciopero, dandosi consigli su che direzione prendere. Sentì il signor Thornton che diceva: «Quello è stato fatto». Seguì un rapido mormorio al quale si aggiunsero altri due o tre signori. Quei provvedimenti sono stati tutti presi. Era sottinteso che c'erano dei dubbi. Alcune difficoltà vennero nominate dal signor Slykson, che teneva per un braccio il signor Thornton, la persona più appropriata su cui far colpo con i suoi discorsi. Il signor Thornton si spostò leggermente, alzò in modo impercettibile il sopracciglio e poi disse: «Correrò il rischio. Non dovete unirvi a me se non volete». Misero in evidenza altri pericoli. Non ho paura di una cosa così ignobile come la sobillazione. Siamo nemici dichiarati e sono in grado di proteggermi da qualsiasi violenza di cui vengo a sapere. E proteggerò sicuramente tutti coloro che verranno da me per lavorare. A questo punto la mia determinazione la conoscono. È per loro ben chiara come lo è per voi. E il signor Horsfall lo prese in disparte per un momento, come ipotizzò Margaret, per porgli ulteriori domande sullo sciopero. Invece in realtà era per chiedergli chi fosse lei, così pacata, così nobile, così bella. «Una signora di Milton?» chiese quando gli fu detto il nome. «No, del sud dell'Inghilterra, Hampshire, credo», fu la fredda e indifferente risposta. La signora Slykson stava interrogando Fanny sullo stesso argomento. «Chi è quella ragazza così bella e raffinata? Una sorella del signor Horsfall?» «Oh, cielo, no! Quello che sta parlando ora con il signor Stevens è il signor Hale, suo padre. Insegna, ovvero fa delle letture con i giovanotti. Mio fratello John va da lui 2 volte alla settimana e così ha pregato la mamma di invitarli qui nella speranza che potesse fare qualche conoscenza. Abbiamo alcuni dei suoi programmi, credo, se desidera averne uno. Il signor Thornton davvero trova il tempo di leggere insieme a un insegnante con tutto il lavoro che ha da fare e con questo terribile sciopero che lo riguarda in prima persona? Dall'atteggiamento della signora Slykson, Fanny non era sicura se dovesse essere fiera della condotta di suo fratello o se vergognarsene. E come tutte le persone che cercano di assumere i pareri degli altri come regola per i propri sentimenti, era portata ad arrossire per ogni comportamento insolito e smise di provare vergogna quando gli ospiti si dispersero.